in questo venerdì 31 agosto. Allora, il Sole 24 Ore, che oggi vi ricordo esce con un libro a cura di Isabella Bufacchi, Un anno con lo spread, lo trovate in edicola dunque a 2 euro, apre con un'interessante novità in vista per quel che riguarda l'energia, tema molto molto caldo anche viste le proteste dei minatori del Sulcis. Energia, ecco il nuovo piano con l'efficienza, 8 miliardi di risparmi. Questo è il titolo di apertura di prima pagina del Sole 24 Ore, è ciò che è in previsione del governo Monti. Poi, come detto, tutti gli altri giornali aprono sulla vicenda intercettazioni. Napolitano è una torbida manovra, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Per Repubblica, Napolitano non sono ricattabile. La Stampa, il Quirinale, niente ricatti. Il Messaggero, Napolitano non è ricattabile. L'Unità, giù le mani dal Quirinale. Il Fatto Quotidiano, Napolitano chiama le armi ma non divulga le telefonate. Il Giornale, ecco chi vuol far fuori Napolitano. Libero, fuori le telefonate del presidente. Avvenire, Quirinale, ricatto a vuoto. Vedete, il Secolo XIX, Napolitano non ricattabile. Il Manifesto, i piedi sul colle, e c'è la foto dell'ingresso al Quirinale. Ne parleremo ampiamente in rassegna stampa, ci sono tantissimi commenti, praticamente tutti i direttori di giornali schierati oggi a commentare in articoli questa vicenda. Prima però vorrei partire da altro. Beh, una cosa curiosa che è successa quest'estate. Io su Twitter l'avevo scritto, ero un po' stupito del fatto che Ciriaco De Mita, notabile della DC, ex presidente del Consiglio, oggi europarlamentare dell'UDC, avesse ancora una scorta. E così la notizia è stata diffusa dai giornali quando è successo un episodio a Prato la Serra in Campania, che ora ha degli strascichi interessanti. Ne parla oggi il Fatto Quotidiano a pagina 11. Ferma l'auto blu di De Mita, vigilessa rischia sanzioni. Vincenzo Iurillo racconta: è a casa, in malattia, travolta da improvvisa notorietà raggiunta da una contestazione di addebito disciplinare. Lo stress ha costretto al riposo forzato Carmelina Pace Parrella, vigile urbano del paesino di Prato la Serra, diventata un'eroina del web dopo la pubblicazione di una lettera di Repubblica. Di questi tempi basta poco per diventare eroi. Cosa ha fatto? Pace Parrella aveva descritto un episodio capitatole durante la sagra della polpetta. Avete sentito bene? La sagra della polpetta. Aveva impedito all'addetto alla sicurezza dell'ex notabile di Ciriaco De Mita di parcheggiare l'auto blu in divieto di sosta nei pressi delle transenne che delimitavano l'area della festa. E la zelante poliziotta municipale si chiedeva anche nella lettera: perché l'onorevole ha ancora una scorta pagata dallo Stato? Quali pericoli corre questo anziano professionista della politica? Alla sagra della polpetta, poi, scrive e ribadisce Iurillo. Le interessanti legittime domande meriterebbero qualche risposta. Diversa però l'iniziativa adottata dal sindaco di Prato la Serra, Antonio Aufiero, che ha aperto invece un procedimento disciplinare nei confronti della signora Pace Parrella, con un capo di incolpazione che recita così: ha impedito alla gente di svolgere le mansioni di tutela dell'onorevole non potendo abbandonare l'autovettura di servizio. C'era un'audizione prevista ieri alle 11, ma la vigilessa convalescente non si è presentata, è stata tutelata dai dirigenti locali della CGIL. Insomma, è una vicenda un po' controversa, che poi si è anche allargata. Ci sono dei gialli, per esempio il sindaco dice: perché la vigilessa ha vietato la sosta all'auto della scorta di De Mita mentre ha consentito la sosta a quella del segretario generale della UGL Centrella, che però smentisce piccato, dice: io sono stato autorizzato dai carabinieri a parcheggiare lì. Beh, tanto si evince anche che c'era un gran traffico anche di autorità alla sagra della polpetta a Prato la Serra, in provincia di Avellino. Però insomma, questo episodio avrà anche degli sviluppi futuri. La vicenda ferma la scorta di De Mita e si ritrova sotto procedimento disciplinare una vigilessa di Prato la Serra. Vabbè, Voglio darvi anche un'altra chicca che trovate dai giornali, a mio modo di vedere, sulla politica. Ci si avvicina alle elezioni politiche, ci si avvicina e si entrerà tra poco nel vivo della campagna elettorale, quello di cui si ha bisogno anche di nuovi movimenti, nuovi partiti, la gente magari chiede rinnovamento, nuove forze politiche. Sappiate che è nato ufficialmente il movimento politico di Emilio Fede. Non è uno scherzo. L'alpino, non so, sorride, ma è così, è una notizia pubblicata oggi dall'Espresso. L'Espresso pubblica questa notizia, ebbene sì, nasce un nuovo movimento, lo chiamiamo Vogliamo Vivere. Questo è il nome scelto da Emilio Fede, che conferma tutta l'Espresso. Fondo un movimento di opinione perché ho ascoltato tanta gente che mi incoraggia. Il PDL rischia di diventare un partito stonato. Vogliamo Vivere riassume il malessere di tanti sotto il cosiddetto governo tecnico. Il centrodestra non può finire in mano alla Santanché, mentre di là c'è Beppe Grillo. Io non sono un politico, ho una storia, 60 anni di giornalismo, la RAI, l'Africa, le guerre seguite al TG4, una storia 2 anni fa che è stata inquinata, ma non mi faccio intimidire. E questa viene riportata anche dai vari giornali. Il Corriere della Sera: Fede lancia il movimento Vogliamo Vivere, e sulla Stampa si guadagna già mezza pagina, pagina 7, anche Fede scende in campo. Il PDL è un partito, è uno spartito stonato, e allora ecco che nascerà il mio movimento, si chiamerà Vogliamo Vivere. Noi vogliamo andare in pubblicità qualche minuto e poi ripartiamo dalla notizia principale, quello che anima il dibattito, la trattativa Stato-mafia e la polemica sulle intercettazioni del capo dello Stato. 24 mattino. Allora, eccoci qua, le 7:31 minuti. Come detto, molti quotidiani dedicano ampie pagine l'apertura alla vicenda delle intercettazioni Napolitano-Mancino nell'ambito della trattativa Stato-Mafia, l'indagine della Procura di Palermo. Sapete che la voce del capo dello Stato è finita in alcune intercettazioni perché l'intercettato era Nicola Mancino. E oggi ci sono tantissimi commenti, articoli su questo, dopo che ieri Panorama, ne abbiamo parlato, ha fatto un articolo, messo in prima pagina l'apertura di Panorama, nella quale si sono pubblicate indiscrezioni su queste conversazioni tra Napolitano e Nicola Mancino. Secondo Panorama, in queste telefonate sarebbero stati espressi dal capo dello Stato giudizi privati anche taglienti nei confronti di alcuni personaggi politici come Berlusconi, Di Pietro, ma anche nei confronti di alcuni magistrati. Ieri c'è stata la durissima nota del Quirinale: solo falsità, non sono ricattabile. La nota di Napolitano parla di manovra destabilizzante, il Corriere della Sera la pubblica tutta a pagina 2, una campagna di insinuazioni e sospetti nei confronti del Presidente della Repubblica che ha raggiunto un nuovo apice col clamoroso tentativo di alcuni periodici e quotidiani di spacciare come veritiere alcune presunte ricostruzioni delle conversazioni intercettate tra il capo dello Stato e il senatore Mancino. Vengono definite con un ossimoro degli autentici falsi. Da qui, insomma, il dibattito sui giornali. Le ricostruzioni delle telefonate vengono definite autentici falsi, e ci sono anche tantissimi commenti e interviste a riguardo. Io vorrei partire intanto dal ministro della giustizia Paola Severino, che fa un'intervista ad Avvenire, un'intervista che lo stesso quotidiano Avvenire dice era dedicata inizialmente al sovraffollamento delle carceri, ma parte da questo tema. E l'articolo è intitolato "Contro il colle, una campagna di illazioni". L'intervista di Vincenzo Spagnolo al ministro Severino, che dice: manifesto la mia più piena solidarietà al capo dello Stato che subisce oggi l'ennesima campagna di insinuazioni e sospetti solo perché si è fatto carico, nell'esclusivo interesse dell'istituzione e nel pieno rispetto della correttezza procedurale, di chiedere alla Corte Costituzionale una pronuncia sul regime processuale delle intercettazioni di conversazioni che abbiano tra gli interlocutori il Presidente della Repubblica. E ancora, dice il ministro Severino, no, ho pensato che non si può trasformare la volontà del capo dello Stato di fare chiarezza su un tema interpretativo così delicato spacciandola per una volontà di nascondere i contenuti di una o più telefonate o addirittura come volontà di ostacolare un'indagine. Non si può permettere di trasformare la doverosa difesa delle prerogative costituzionali del capo dello Stato e la tutela di interessi indisponibili, come quello alla riservatezza nelle sue conversazioni, rappresentandola in modo falso come un sipario da far scendere sul contenuto delle intercettazioni. E anche su queste intercettazioni da far divulgare a questo punto, come chiede per esempio Maurizio Belpietro su Libero in maniera molto chiara, dire: Presidente, faccia sapere il contenuto di queste intercettazioni, o come chiede il Fatto Quotidiano in prima pagina quando titola: Napolitano chiama alle armi ma non divulga le telefonate. Ecco, a questa domanda risponde il ministro Severino: credo sia fuorviante far apparire come una scelta del Presidente della Repubblica il rendere noti o meno i contenuti dei colloqui intercettati, almeno per due motivi fondamentali. Primo, perché si tratta di conversazioni la cui divulgazione non è nella disponibilità del Capo dello Stato, in quanto le esigenze di riservatezza non attengono alla sua posizione personale. In secondo luogo, perché la registrazione delle telefonate non è nella materiale disponibilità del Presidente, bensì della magistratura, che è tenuta a conservarle, visto che quantomeno in questa fase non è consentita la divulgazione neppure la conoscenza da parte di difensori e interessati. Ecco, tra l'altro questo è interessante come punto: non è consentita la conoscenza da parte di difensori e interessati, perché in realtà Antonio Polito, nel suo editoriale che trovate in prima pagina del Corriere della Sera, dal titolo Illazioni e allusioni, a un certo punto scrive proprio questo invece: le telefonate vengono conosciute, sono conosciute da un numero imprecisato di magistrati che le hanno ascoltate ma non trascritte, e anche gli indagati conoscono il contenuto delle telefonate, tanto che Antonio Polito lancia questa domanda: che sia stato proprio Mancino a parlare con Panorama, cioè la persona che era intercettata, a parlare con Panorama? Questo chiede Antonio Polito. Detto questo, molte interviste. Il procuratore capo di Palermo, Messineo, viene intervistato dal Corriere della Sera, pagina 2-3. Trovate l'intervista. Valutiamo l'indagine sulla fuga di notizie, ma non siamo un colabrodo. Non mi risulta che esistano questi contenuti, né posso concordare con le ipotesi di Di Pietro, che, chiede il Corriere della Sera, a Radio 24 aveva proprio detto: probabilmente si sarà lasciato scappare qualche parolaccia di troppo, Napolitano. E allora Felice Cavallaro chiede: scusi, è vero che le intercettazioni conterrebbero un giudizio duro contro Di Pietro e parole poco benevole su Berlusconi? Sentite cosa risponde il capo della Procura di Palermo: non posso affermare o negare, significherebbe rendere esplicito il contenuto. E però, messa così, sembra che ci sia del vero, chiede Cavallaro. Se accedessi a questa prospettiva di conferme o smentite, incorrerei comunque in una rivelazione di segreti d'ufficio. Poi Messineo comunque dice: la procura non è un colabrodo. Tra l'altro, dalla procura di Palermo sicuramente non è uscito nulla, visto che difficilmente avremmo usato un settimanale come Panorama, che non è mai stato molto tenero con la stessa procura, per divulgare queste cose. Al che Felice Cavallaro fa una domanda molto intelligente e gli chiede: beh, con lo stesso ragionamento si potrebbe invece pensare che qualcuno agevoli fughe di notizie verso il Fatto Quotidiano o altri giornali, visto che sono giornali più benevoli verso la procura. È una opinione, risponde il capo della procura, e ognuno ha il diritto alle proprie opinioni. Il PM Ingroia invece fa due interviste e un editoriale sull'Unità. Allora, due interviste, una al Fatto Quotidiano, intervistato da Giuseppe Lobianco, a pagina 3, il bersaglio di Panorama siamo noi in realtà. Il giornale di Mulè è stato manovrato dalle sue stesse fonti. Ho la certezza che in quel pezzo non c'è una riga del contenuto effettivo delle conversazioni telefoniche. Invece, intervistato da Repubblica, da Goffredo De Marchis, dice Ingroia: nessun mistero, abbiamo sempre indagato liberamente. sono totalmente d'accordo con la nota del capo dello Stato. E per rafforzare il suo pensiero trovate anche un editoriale in prima pagina dell'Unità di Antonio Ingroia, che scrive: il procuratore capo di Palermo ha già chiaramente smentito la corrispondenza tra il contenuto del presunto scoop di Panorama e il tenore delle telefonate intercettate dal nostro ufficio, quindi non c'è nulla da aggiungere a questo. C'è invece molto da aggiungere su altro, e cioè il salto di qualità di un certo modo di fare informazione nel nostro paese, un salto di qualità all'indietro. Personalmente, scrive Ingroia, non ho mai visto un articolo come questo che su una vicenda così delicata, con potenziali effetti destabilizzanti per le istituzioni, non contiene né fatti né notizie, ma solo una discutibile e fantasiosa ricostruzione. C'è da dire invece che, appunto, il direttore di Panorama, Mulè, si difende in un'intervista al Giornale, a pagina 3, la trovate, il titolo è: i giustizialisti ora non facciano i maestrini, la coscienza è serena, dice Mulè, come al solito a Panorama è stato fatto con coscienza un lavoro seguendo i canoni del buon giornalismo. Siamo alla fiera dell'ipocrisia, vedere certi giornali come Repubblica e Il Fatto che salgono in cattedra, vedere i maestrini del Fatto invocare l'intervento dell'ordine dei giornalisti e scoprire, pensate un po', proprio da loro che un giornalista non può avere fonti anonime, suscita una certa reazione di rigetto, se mi permettete. Quanto al sindacato dei giornalisti, Siddi, da quanto leggo dalle sue dichiarazioni, mi sembra in preda al delirio. Insomma, questi sono anche i toni. C'è da dire che ci sono poi molti molti commenti, avete sentito Stefano Folli a Radio 24, anche affida un commento anche alla prima pagina del Sole 24 Ore. Scrive Stefano Folli: Giorgio Napolitano non aveva altra scelta che rispondere come ha risposto al veleno che si va spargendo su Roma. Era evidente fin dall'inizio che l'oscuro affare dell'intercettazione aveva un solo obiettivo: indebolire in termini politici e istituzionali il Presidente della Repubblica e condizionarlo rispetto a due passaggi chiave che ancora mancano alla conclusione del suo mandato, vale a dire lo scioglimento delle Camere e le procedure per dar vita al primo governo della prossima legislatura. Mentre tra gli altri commenti vi segnalo Ezio Mauro, anche il direttore di Repubblica, che è molto duro nei confronti di Panorama, dell'articolo di Panorama. Siamo arrivati a questo, scrive nel suo editoriale Verità e Demagogia. Il settimanale ideologico della destra berlusconiana finge di conoscere il testo delle conversazioni intercettate tra Mancino e Napolitano. Non è così, perché la procura ha tenuto segrete quelle conversazioni, le ha anzi stralciate in un fascicolo morto. Lo sbandamento del mondo berlusconiano può trovare interesse in questa fase di incertezza sui destini dell'ex premier a tenere sotto pressione il capo dello Stato. Naturalmente in questa storia la verità non conta nulla. I giornali della destra subito cavalcano questa manovra spacciata per notizia, pur essendo evidente l'inconsistenza. Mentre sul Giornale in prima pagina Alessandro Sallusti, il direttore, scrive: giornali che non hanno avuto alcuna remora in passato a sbattere in prima pagina indiscrezioni sulle intercettazioni altrettanto illegali di Silvio Berlusconi, famosa quella sulla Merkel culona, mai allegata a un atto giudiziario, ora fanno quelli con la puzza sotto il naso, si stringono a difesa della vittima di turno, ci risiamo con la macchina del fango a senso unico. Insomma, ne parleremo in questo clima alle 8:30. C'è da dire che i commenti anche che sul Corriere della Sera e sulla Stampa leggiamo di Silvio Berlusconi sarebbero stati questi ai suoi collaboratori: ora anche lui sa cosa si prova a stare sulla graticola, tanto che molti giornali in maniera molto esplicita hanno anche adombrato il sospetto. Beh, ecco, il settimanale Panorama, il cui editore è la Mondadori, dunque Silvio Berlusconi, ha fatto questo scoop di ricostruzioni per poi forzare la mano e dite: vedete come possono fare male le intercettazioni. Ne parleremo appunto con il vice direttore di Panorama Maurizio Tortorella alle 8:30, Peter Gomez del Fatto Quotidiano. Il clima certo è questo, un clima di scontro istituzionale non indifferente tra i vari protagonisti che sono citati in questa vicenda molto molto intricata. Venendo invece alle cose più meramente politiche, e del governo. Beh, è ufficiale, cari ascoltatori, il decreto salute che vuole badare alla nostra salute, mettendo tra l'altro la tassa sulle bibite, per ora è sospeso, è stato rinviato a settembre, per la salute c'è tempo. C'era d'altronde, adesso, a parte la battuta, c'erano degli screzi o delle vedute diverse all'interno del Consiglio dei Ministri, questo è già emerso nei giornali sul decreto Balduzzi, e quindi per il momento decreto salute salta il Consiglio dei Ministri, salta proprio il Consiglio dei Ministri, dubbi procedurali di copertura, era il Consiglio dei Ministri previsto per oggi che salta, avrebbe dovuto esaminare proprio il decreto sanità, una convocazione ufficiale ancora non c'è, la riunione di governo dovrebbe tenersi, rinviata dunque il 5 settembre, rinviata anche la discussione su provvedimenti annunciati dal ministro Corrado Passera. Dunque questo per il momento è rinviato, mentre oggi il Sole 24 Ore continua nella sua iniziativa, annunciata un paio di giorni fa dal direttore Roberto Napoletano, di fare il tagliando di tutto quello che è stato fatto dal governo Monti, di quello che manca da fare. Ieri ci si concentrava sui decreti attuativi, le norme attuative, quelle che poi permettono a una legge che viene approvata, quando si dice approvata, poi di diventare esecutiva in maniera efficace. Oggi il tagliando delle riforme nei ministeri, attuazione al 15%, questo trovate nell'articolo a pagina 2 e 3. Le principali amministrazioni coinvolte hanno finora approvato 25 provvedimenti su 161 richiesti. Questo per il Ministero dei Beni Culturali, il Ministero dell'Economia, il Ministero delle Infrastrutture. Trovate poi tutti i dettagli, ministero per ministero, l'istruzione, il lavoro, la semplificazione, lo sviluppo economico. Ecco, ricordate questa cifra, questa percentuale che poi potete vedere dettagliata. L'attuazione per il momento è al 15% delle principali amministrazioni coinvolte nel governo Monti. E invece una novità importante sul tema dell'energia, sempre prevista in futuro dallo stesso governo Monti, da qui ripartiamo dopo le informazioni sul traffico. L'apertura del Sole 24 Ore, come detto, riguarda il comparto energia. Il titolo è sul nuovo piano del progetto del governo, investimenti per 180 miliardi in 8 anni. E questo per cercare di far scendere la dipendenza dell'Italia dall'estero in fatto di energia, uno dei punti critici dell'Italia, dall'attuale 82% al 65%. E arrivare a un taglio dei gas serra del 19%. Tutti i dettagli poi sono nell'articolo di Carmine Fotina che trovate a pagina 10. 180 miliardi di euro di investimento, taglio del 19% delle emissioni di gas serra rispetto al 1990, riduzione per 15 miliardi di euro all'anno della fattura energetica estera, 23% di incidenza dell'energia rinnovabile sui consumi totali, meno 24% dei consumi primari rispetto all'andamento inerziale. Questi sono gli obiettivi che si è posto al 2020. Il governo nella nuova strategia energetica nazionale, sono un rapporto completo di 100 pagine ricche di grafici che riguarda 5 aree di intervento, vale a dire consumo, infrastruttura e mercato elettrico, infrastruttura e mercato del gas, raffinazione e distribuzione dei prodotti petroliferi e ricerca ed estrazione di petrolio e gas. Gli obiettivi sono 4: ridurre il gap di costo dell'energia, favorire la crescita sostenibile, migliorare sicurezza e indipendenza di approvvigionamento e raggiungere e superare i target europei del 2020. Investimenti pari a circa 180 miliardi, come detto, tra green economy e settori tradizionali, un mix di interventi che dovrebbe consentire di ridurre la dipendenza dall'estero dall'82% attuale al 65%. Questi gli ambiziosi obiettivi di questa agenda per la crescita sul piano energia del governo che oggi il Sole 24 Ore rende noto. Mentre per quanto riguarda la politica, forse l'intervista più interessante del giorno è quella al sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, che trovate sul Fatto Quotidiano, anche perché, nota a margine, provate voi a intervistare il sindaco di Parma. Noi ci abbiamo rinunciato dopo, non so, 400 telefonate che abbiamo fatto al suo portavoce. Se ci ascolta il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, noi siamo qua disponibili all'intervista. Certo, lo intervista sul Fatto Quotidiano Ferruccio Sansa, che è anche un giornalista molto amico e vicino a Beppe Grillo. Ecco, forse allora questo aiuta, se non altro. 100 giorni di governo a Parma, risponde alle critiche, ancora fermi, ma no, è colpa del passato. 3 mesi difficili da sindaco di Parma, ci sono ostacoli, ammette Pizzarotti, il debito è enorme. E, riguardo all'amicizia con Grillo, dice: dopo il ballottaggio a Parma non si è più visto. Come sindaco e rappresentante dei cittadini io sono indipendente, risponde Pizzarotti. Poi rappresentiamo anche un movimento, sentiamo i colleghi per chiedere consigli, confrontare le esperienze. Anche Grillo l'ho sentito, nulla di più. Dal giorno del ballottaggio non è più venuto in città. I miei assessori sono testimoni che agiamo in autonomia. Sul tema forse cruciale, che è quello dell'inceneritore, nel programma era forte il no all'inceneritore, alla domanda ve lo siete rimangiato questo no, risponde Pizzarotti: no, speriamo di non doverlo utilizzare. A settembre organizzeremo un grande evento, spiegheremo alla città la nostra proposta. Deve essere chiaro, dicono che se non si darà il via all'inceneritore si dovranno pagare centinaia di milioni di penale, ma i cittadini pagheranno anche se si farà, sulla bolletta. Dunque pare di capire, cari cittadini di Parma, che questa vicenda dell'inceneritore comunque andrà a finire, la pagherete. Se non lo fate, le penali; se lo fate, sulla bolletta. Questa è l'unica certezza della politica: il cittadino paga sempre. E, vabbè, risponde alle varie critiche anche sulla vicenda assessori. C'è stato un parto molto lungo e prolungato, ma dice: abbiamo scelto, non avevamo nomi precostituiti, dunque abbiamo scelto persone di qui. Non avevamo liste pronte di persone da piazzare come in passato, e dunque ci siamo presi tutto il nostro tempo. L'intervista a Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, la trovate sul Fatto Quotidiano a pagina 7. Scalpita invece, sempre come politica, Renzi che ha paragonato i politici, ha citato Ridge di Beautiful. Se c'è una cosa certo che Renzi sa fare è essere un comunicatore, è l'emblema della rottamazione. Anche lui dopo 25 anni ha deciso di smettere di fare Beautiful, mentre i nostri politici, c'è gente che è da 40 anni in politica. Renzi, quindi Ridge, forse si ispirerà a Ridge di Beautiful per far capire che ci vuole il rinnovamento anche nella politica. Vabbè, che dire, io devo chiudere. Un interessante articolo che voglio segnalare a tutti i genitori, quelli che sono apprensivi, che seguono i figli, che magari vogliono sapere le password dei loro figli, quelli che si dilungano a discutere è meglio lasciarli liberi o è meglio leggere cosa scrivono su Facebook, è meglio sapere o meglio non sapere. Sappiate, scrive a pagina 29 il Corriere, un'intera pagina: ci sono ormai le app, e sono tantissime, per controllare dove vanno i tuoi figli. L'avviso è ai genitori ficcanaso, apprensivi e iperprotettivi. Le app per gli smartphone gratuite per sapere, tracciare con la precisione del metro quadrato dove si trova vostro figlio, vostra figlia, in questo stesso istante. C'è anche un articolo di Francesco Piccolo, scrittore, intellettuale, che dice: ma insomma, lasciamoli liberi, troviamo il coraggio di non avere paura. C'è un pensiero del profeta di Gibran, scrive Piccolo, che vive nella mia testa dal giorno in cui ho soltanto immaginato che avrei avuto un figlio, ed è questo il pensiero: i tuoi figli non sono i figli tuoi, sono i figli e le figlie della vita stessa. Tu li metti al mondo ma non li crei, sono vicini a te ma non sono cosa tua, puoi dar dimora al loro corpo ma non alla loro anima, perché la loro anima abita nelle case dell'avvenire, dove a te non è permesso di entrare neppure col sogno. Tu sei l'arco che lancia i figli verso il futuro. Ecco, Francesco Piccolo, partendo da questa considerazione dello scrittore poeta Gibran, dice: la verità è che i genitori hanno paura per i loro figli. La paura è senz'altro un'espressione d'amore, ma non è certo la migliore. Ecco, lasciate un po' di libertà ai figli, lasciamoli liberi, trovate il coraggio, cari genitori, di non avere paura. Dunque non scaricatevi queste app per sapere dov'è mio figlio in questo momento, vado a controllarlo con l'app sullo smartphone, lo traccio, lo seguo, lo perseguito. Il giornale radio e poi rientriamo alle 8:20.